Salva Danaio di Deborah Rosciani. Guarda Roberto, che non è Halloween, non c'è da fare lo scherzetto dolcetto questa mattina in apertura di Salva Danaio. Qua i tecnici sono sempre molto allegri quando mi presento io dietro al vetro per la diretta, segno che vi metto a vostro agio, sono molto contenta di questo, ma speriamo di mettere a loro agio anche gli ascoltatori di Salva Danaio questa mattina, che saluto. Buongiorno da Deborah Rosciani, perché parliamo, per la verità, di un tema molto delicato e andiamo ad esplorare un territorio piuttosto delicato. Salva Danaio non lo fa molto spesso, però è un tema molto importante, quello del peso che i servizi sanitari gestiti dallo Stato per assicurare la cura e la salute di noi tutti possono avere, e anno dopo anno in maniera sempre più notevole, sulle finanze delle nostre famiglie. Un peso che si concretizza nel prezzo del ticket sanitario, con cui il cittadino partecipa alle spese per farmaci, visite mediche, analisi, pronto soccorso. Il costo del ticket è al centro di molte discussioni già dalla scorsa estate, quando la manovra del ministro Giulio Tremonti a luglio aveva introdotto il super ticket da 10 euro sulle visite specialistiche, lasciando però ai presidenti delle regioni la possibilità di rimodulare questa tassa. Proprio questa condivisione delle responsabilità con le regioni, che si sono comportate ciascuna in modo diverso, rende il quadro della sanità italiana, e così anche il prezzo del ticket, molto variegato a seconda delle zone. Stamattina cercheremo di capire chi si trova a pagare di più e chi di meno per le medesime cure. Tra l'altro, avevamo anche scoperto, perché avevamo organizzato una trasmissione abbastanza rapidamente dopo le decisioni di Tremonti, che anche se le regioni non avevano immediatamente ottemperato alle nuove disposizioni, per la verità magari nella medesima regione si era verificato che qualche USL aveva invece immediatamente ottemperato alle disposizioni di Tremonti, rendendo quindi il quadro ancora più complesso ed eterogeneo. Facendo un calcolo complessivo, se ne è occupato il quotidiano online Quotidiano Sanità, nel 2012 pare che spenderemo 140 euro a testa di ticket per farmaci, analisi, visite e pronto soccorso, con una spesa totale di 4,5 miliardi, una cifra che potrebbe salire ancora, anzi salirà ancora senz'altro dal 2014, quando arriveranno i nuovi ticket e la spesa per la compartecipazione arriverà a 6,5 miliardi. Ma c'è anche molto altro, perché ci sono per esempio anche le prestazioni intramenia, cioè quelle che i medici pubblici fanno in regime privatistico all'interno delle strutture pubbliche. Ci sono tante altre voci delle quali parlare. Noi questa mattina faremo un punto della situazione per capire anche i cittadini, di fronte a tutto questo, come reagiranno, perché in un momento in cui arriveranno rincari su tutti i fronti, e magari su qualche voce possiamo anche risparmiare qualcosa, perché se arriva l'aumento della bolletta della luce o del gas, e magari lì, modificando un po' i nostri comportamenti, forse queste spese le possiamo anche tenere sotto controllo. Ma se non stiamo bene e le visite le dobbiamo continuare a fare, se dobbiamo tenere sotto controllo la nostra salute, perché magari è un po' precaria, insomma, conosciamo bene quanto all'interno delle famiglie italiane queste situazioni esistano, è chiaro che qua allora difficilmente possiamo trovare dei risparmi e possiamo viaggiare al risparmio su questa voce. Quindi, in che misura l'introduzione anche delle nuove tasse spingerà i cittadini ad allontanarsi dal Servizio Sanitario Nazionale, per chi potrà permetterselo, appunto, andando invece a ricercare il settore privato? Quali le fasce che restano esenti dal pagamento? So che c'è una soglia molto alta, perché circa il 40% della popolazione italiana è esente dal pagamento, appunto, dei ticket sanitari, e soprattutto cerchiamo di capire quali saranno i nuovi orientamenti del nuovo ministro della Sanità Balduzzi. Questa mattina con noi Roberto Turno, collega del Sole 24 Ore, coordinatore editoriale del Sole 24 Ore Sanità. Roberto, buongiorno, benvenuto, bentornato a Salva Danaio, buona giornata. Buongiorno a te, Deborah, ai tuoi ascoltatori e ai tuoi ospiti. E buon anno, naturalmente. Buon Poi anno. Con noi anche Cesare Fassi, direttore responsabile di quotidianosanità.it, che ho citato prima, poi ci racconterà come il quotidiano ha stabilito questi 140 euro a testa di ticket per l'anno che è appena iniziato. Fassari, buongiorno direttore. Buongiorno a voi, grazie. E naturalmente tra un po' ci collegheremo anche con una organizzazione che tiene molto sotto controllo questo tema. Ci collegheremo tra un quarto d'ora circa, alle 12.30, con Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato. Voglio sentire anche voi naturalmente su questo argomento. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di chiamarci e di intervenire in diretta. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. siamo anche sulle social network, siamo su Facebook salvadanaio-radio24. Prima di cominciare la nostra chiacchierata su questo argomento, la borsa, naturalmente oggi controlliamola. Allora, vedo già una cosa che non mi piace, perché stamattina Milano, dopo essere andata molto bene ieri, era ripartita di nuovo piuttosto bene. Un'ora e mezza fa circa guadagnava oltre un punto percentuale, adesso invece vedo questo FTSE MIB che rallenta il passo, e lo rallenta un po' troppo per i miei gusti, più 0,27% in questo momento sul principale paniere di Piazza Affari. Tengono ancora bene i titoli bancari, che hanno sofferto tanto nella settimana scorsa, in particolar modo da quando Unicredit ha comunicato le condizioni del suo aumento di capitale, che oggi è giunto alla terza giornata, si concluderà appunto il 20 gennaio. Ma dopo il rimbalzo di ieri, oggi Unicredit mette a segno un altro rialzo di quasi 5 punti percentuali, siamo a 2,54 euro. Ricordo che l'aumento di capitale viene fatto a 1,94 euro e qualcosa. Popolare di Milano però il titolo è il miglior bancario, più 6%, qua il gruppo è in attesa del nuovo amministratore delegato. Monte dei Paschi più 5,37%, altra banca che avrebbe bisogno di una bella ricapitalizzazione ma non vuole passare all'aumento di capitale, per cui deve alzare il velo sulle sue intenzioni, sulle modalità con cui intende procedere verso questa operazione. Altri rialzi abbastanza sostenuti: Finmeccanica più 3,73, Luxottica, che ha avuto un giudizio positivo dagli analisti di Barclays, guadagna il 2,83%. Già ieri il lusso era andato abbastanza bene dopo i dati di Swatch. In discesa invece abbiamo Pirelli, che perde il 4,90%, e qua perché il settore dei pneumatici sembra un po' in difficoltà, sono state espresse delle preoccupazioni su come potranno andare le vendite quest'anno nel settore dall'altro gigante americano, Goodyear, e quindi ne risentono tutti i titoli del settore un po' in tutto il mondo. Atlantia, ex autostrade, meno 3,16, Campari, meno 1,91, Fiat, meno 1,73. Quindi abbiamo dato i migliori e i peggiori della classe in questa giornata. Euro su dollaro a 1,2750, lo spread fra BTP e Bund è sui 500 punti base, il rendimento del titolo decennale per fortuna ci fa respirare un attimino, fa respirare oggi un po' un momentino di tranquillità Monti davanti alla Merkel, e sta intorno al 6,98%, niente di esaltante, potrebbe fare di meglio, ma in ogni caso con questa spada di Damocle di Fitch che adesso ci pende addosso sicuramente viaggeremo su questi livelli ancora per un po'. Solo rapidamente le altre piazze europee: Parigi più 0,04, Francoforte meno 0,34, Londra meno 0,27%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo di ticket sanitari. 4 miliardi e mezzo per il ticket. È intorno a questa cifra che si aggira l'importo totale che i cittadini italiani sborseranno nel corso del 2012 per le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Dai farmaci alle visite mediche, dalle analisi al pronto soccorso. La stima è di Quotidiano Sanità e tiene conto anche dell'introduzione, con la manovra estiva di Tremonti, del cosiddetto super ticket di 10 euro per le visite specialistiche. In media, facendo un calcolo complessivo a livello nazionale, la spesa annua si attesterebbe a 140 euro pro capite per i 32,4 milioni di italiani non esenti dal ticket. In realtà la situazione cambia molto da regione a regione. I governatori potevano infatti decidere di rimodulare il super ticket ipotizzando soluzioni alternative a parità di saldo, compensando con le proprie risorse o spalmando il taglio in base a criteri diversi su altri mini ticket. Anche la sanità, insomma, ha un suo prezzo, anche e soprattutto in tempo di crisi, ed è un prezzo destinato a salire se si considera che dal 2014 arriveranno nuovi ticket e la spesa per la compartecipazione salirà a 6,6 miliardi. Una situazione che i cittadini osservano con grande attenzione, in particolare quelli che non possono fare con leggerezza riferimento al privato. Regioni e governo, nel frattempo, continuano a confrontarsi e il nuovo ministro della Sanità, Balduzzi, ha già fatto presente la proposta di reimpostare in maniera unitaria, a livello nazionale, l'intera questione dei ticket con più equità sociale e indipendentemente dall'età, a seconda del reddito equivalente del nucleo familiare e dell'eventuale presenza di patologie o invalidità. Comincio subito con il leggere un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: in Lombardia per un'ecografia all'addome dovevo attendere un mese e mi costava 75 euro di ticket, da privato mi è costato 88. Non è un po' poca la differenza? Valuteremo anche questo, gentile ascoltatore che non si firma e che ci scrive uno dei messaggi. Sono già molti quelli che ci stanno arrivando al 349-238-6666 e ci stanno arrivando anche molte richieeste di intervento in diretta all'800-24-00-24. Volevo però fare un po' riepilogo della situazione con il collega del Sole 24 Ore, con Roberto Turno, che avevamo già interpellato su questo argomento nell'altra puntata, di cui ho la scaletta sotto mano, che avevamo prontamente organizzato all'indomani delle nuove disposizioni del ministro Monti il 19 luglio, per capire che cosa sia cambiato da allora, appunto, per quello che riguarda le spese che i cittadini italiani devono sostenere per fare un'ecografia, per fare un TAC, oppure anche per andare a comprare i farmaci, perché anche lì c'è stato appunto qualche aumento che probabilmente sarà anche inasprito prossimamente. Allora, visto che tra l'altro, lo ribadisco Roberto, quando noi abbiamo organizzato la puntata in luglio, l'abbiamo davvero organizzata all'indomani delle decisioni di Tremonti e immediatamente non si era vista qual era stata l'ottemperanza delle regioni rispetto alle nuove misure. Oggi abbiamo sicuramente un quadro più chiaro e quindi quali regioni hanno inasprito i ticket e chi invece è riuscita a non farlo. Ma guarda, tutte si sono mosse, direi, come si evince dai dati raccolti, che sono una fotografia dell'esistente. Direi che la manovra estiva che ha fatto, peraltro, ha rimesso in vigore ciò che per 5 anni circa si era frenato, cioè la piena entrata in vigore del super ticket da 10 euro introdotto con la finanziaria per il 2007, quando il Presidente del Consiglio era Prodi e Ministro era Livia Turco, misura che per anni è stata frenata, di cui nessuno ha poi preso più la paternità, né i governi di allora, né quelli dopo, nelle regioni, e adesso ci troviamo in questa situazione di una misura che, al di là dell'impatto violento per gli assistiti, perché 10 euro non sono pochi, era anche assai mal architettata, perché spesso magari conveniva pagare la pressione piuttosto che il ticket, per il servizio pubblico era una perdita secca, il servizio era mal fornito. Ma direi che ciò che cambia è ciò che ci sarà dal 2012, perché quei 4 miliardi e mezzo, che per carità sono reali, ahimè, sono un tantino di più, in quanto vorrei dire non è un ticket in senso stretto, ma comunque è sempre un contributo all'SSN ai medici, l'attività intramenia dei medici, che costa 1 miliardo e 100 milioni circa, 100 milioni l'anno ai cittadini, per una spesa media di 18 euro che però salgono a 33 in Toscana, 32 in Emilia. Ecco, questo è un dato. Un altro effetto che pagheremo subito con la bolletta della sanità per il 2012, che pagheremo fin da questa busta paga, è l'aumento delle addizionali IRPEF. Questa, mi permetto di dire, è una bolletta da 2 miliardi e poco più ancora, che fra l'altro è stata voluta dalle regioni in alternativa ai ticket, quindi io li chiamerei ticket mascherati. Ticket, l'addizionale, insomma, ticket è fantastico, ticket, Roberto. O tagli delle prestazioni. Questa bolletta, ha appena calcolato il nostro giornale, il Sole 24 Ore, vale una media di 67 euro a cittadino in più, che dagli 80 e passa della Lombardia a quelli 48 della Calabria. Voglio dire, è una bolletta molto salata, e giustamente quando poi andrà a calcolare quello che potrà essere l'effetto se partiranno dal 2014 dei 2 miliardi in più di ticket che sono previsti e che devono essere adesso architettati col patto per la salute di cui si discute, insomma. Aggiungerei un altro dato, perdonami poi. No, ci mancherebbe, no, guarda, infierisci sembra... finché puoi, così almeno non possiamo solo che migliorare nelle notizie che abbiamo. Ma questo perché poi insomma parliamo di un servizio che più resta pubblico, però pubblico di qualità meglio è, quindi insomma purché tutti facciano la propria parte davvero, come si dice, compresi gli evasori, e questo magari è un tasto a parte. I ticket sui farmaci da gennaio a settembre sono cresciuti del 36,5% in tutta Italia, con punte del 125% in Puglia, del 113% in Campania, fino a un minimo del 6,3% in Calabria. Voglio dire, più salasso di così non se ne può, e forse a quei 140 euro a testa, sommando tutto, arriviamo nel 2012 almeno a 220, quindi 230, quasi il doppio, insomma, tu calcoli. Non che calcolo, dico sommo un po' a altri contributi che poi il nostro salasso quotidiano per la salute. E infatti, e il problema poi, come dicevo prima, è che mentre magari cambiando certe abitudini di comportamento, altre spese le possiamo anche tenere un po' di più sotto controllo rispetto a come abbiamo fatto il passato, su queste voci qua mica ne sono tanto sicura, perché se ci serve un farmaco e magari non siamo in quella soglia reddituale che ci consente l'esenzione, ce lo dobbiamo andare a comprare, e chiaramente sopportando anche tutti gli oneri maggiori che è necessario sostenere. Allora, direi che è già arrivato il momento della nostra prima pausa, per cui chiedo ancora un attimino di pazienza al presidente di Quotidiano Sanità, al direttore di quotidianosanità.it, Cesare Fassari. Tra poco ci collegheremo anche con Francesca Moccia, prima di farmi raccontare dal direttore Fassari come sono arrivati a questi 140 euro, che tipo di monitoraggio hanno eseguito. Possiamo anche già cominciare magari a sentire rapidamente un ascoltatore e poi andare alla prima pausa. Lida dalla provincia di Brescia, è Lida oppure sono le ragazze del mio centralino che si sono sbagliate? No, Lidia. No, è Lida. Lida, buongiorno, ci buongiorno. Racconti allora. Niente, io volevo solo segnalare questo, che praticamente tutte le volte che mi sono recata per esami è stato chiesto a me se godevo dell'esenzione del ticket. Ecco, io credo che chiesto così ai cittadini, che potranno sempre dire ma mi sono sbagliato, non avevo capito bene, si collochi una grande evasione fiscale. Ah, quindi è una sorta di autocertificazione proprio vocale, Lida, le chiedono. Mette a rischio un introito incredibile. Dopodiché dico che oggi con tutti i servizi in rete si possono benissimo verificare quasi in diretta le posizioni, chiamiamole fiscali, di ciascuno. Questo in una regione come la Lombardia, voglio dire. Questa è la cosa che le la fa arrabbiare di più, insomma, lì, da questo comportamento che vede, che comunque rende molto ampia la platea effettivamente degli esenti. Io quando ho letto che siamo oltre il 40%, effettivamente sono rimasta stupita anche io. La ringrazio per la sua testimonianza, poi ci faremo raccontare anche dei nostri interlocutori esperti come funziona, se è davvero così facile presentarsi ad uno sportello, devo fare un attacco all'addome, io sono esente, glielo assicuro, arrivederci e grazie. Forse non è così semplice, magari è successo solo là. Eccoci di nuovo insieme a Salvadanaio che oggi tocca il tema della sanità, molto delicato naturalmente, perché sappiamo bene in che situazione di difficoltà nel relativo bilancio viaggiano le regioni italiane, in profondo rosso per quello che riguarda questa voce, che è un onere molto importante. Lo è anche per il bilancio familiare, perché come tra l'altro vorrebbe raccontarci tra poco un'ascoltatrice, non è che si sceglie di star bene o di star male, però adesso anche chi sta molto bene ha tutto il diritto di farsi dei controlli periodici, non dovesse dissanguare il portafoglio per doverli fare, chi invece tra l'altro è obbligato ancor peggio, perché chiaramente deve sopportare l'onere di tutti gli aumenti che sono arrivati dalla scorsa estate con l'introduzione del super ticket di Tremonti, 10 euro su molte prestazioni, e poi hanno anche spiccato letteralmente il volo i ticket sui farmaci, ce lo raccontava molto bene il collega del Sole 24 Ore Roberto Turno. Tutto questo però naturalmente non implica che sia finita qua, perché come dicevamo all'inizio il quotidianosanità.it ha calcolato che nel 2012 spenderemo 140 euro a testa di ticket per farmaci, analisi, visite e pronto soccorso, ma anche se appunto Roberto ci diceva che non abbiamo forse considerato alcune voci e forse gli aumenti potrebbero essere complessivamente molto di più. Direttore Fassari, di nuovo buongiorno, come siete arrivati a questa cifra? Avete tenuto fuori qualche voce? Anche voi avete il timore che in realtà i costi che le famiglie italiane da questo punto di vista dovranno sostenere ed affrontare saranno di più? Ma naturalmente le voci che Roberto citava prima vanno ovviamente aggiunto a quanto il cittadino italiano, a parte ciò che già paga a monte come imposte per finanziare la sanità pubblica, dovrà anche versare, diciamo, in più cash, sicuramente l'addizionale IRPEF, delle quali forse non ci renderemo conto perché sono delle in qualche modo vengono prese automaticamente dalle buste paga, e così come per l'IRAP per quanto riguarda le imprese, certamente la quota di libera professione intramuraria per chi a volte perché preferisce scegliersi personalmente il medico, a volte diciamolo anche per evitare lunghe liste d'attesa e quindi in qualche modo ne è costretto a ricorrere alle prestazioni libero professionali. E il nostro dossier invece si è limitato a cercare di fare una stima su quella che anche i colleghi del Sole spesso insieme ci siamo trovati a definire come giungla del ticket in Italia, perché in Italia è successa una cosa un po' strana, forse poi abbiamo un po' la memoria corta. 12 anni fa, ormai si può dire 11 e mezzo esattamente, al governo e della salute c'era un grande medico italiano che si chiama Umberto Veronesi, che è stato ministro della salute per una breve stagione con il governo allora presieduto da Amato. Cosa fece Veronesi tra gli ultimi suoi atti di quella breve stagione politica? Abolì i ticket. Decise di togliere tutti i ticket tranne uno che è sempre rimasto in vigore, il famoso ticket sulla specialistica, che può arrivare a un massimo di 36,15 euro, all'epoca erano 70.000 lire, è uno dei pochi casi in cui la lira è stata trasformata in euro in maniera corretta e tale è rimasta fin appunto dai tempi delle lire. 70-70 fatto, da 70.000 lire. 70.000 lire, 36,15 euro. Ah, ecco. Euro. Sì. Tutto il resto dei ticket, poi sostanzialmente erano quelli sui farmaci, furono tolti con un plauso generale, è ovvio. Cosa è accaduto però? Che in ogni caso la normativa vigente ha sempre consentito alle regioni di poter inserire delle forme di compartecipazione alla spesa con delle finalità che potevano essere di moderare i consumi o anche di fatto, anche se poi non si dice, di fare cassa, cioè certo, quindi aumentare gli introiti. Poi MEF fa anche impazzire la modalità elegante con la quale al cittadino si chiede di pagare il ticket, la compartecipazione alla spesa, esatto, sanitaria. Divertente. Sì, che sembra una cosa quasi bella, no? Sì, nobilissima, ma magari lo è anche effettivamente. Però. Sì, lo è, e poi lì entreremo in un altro tipo di discorso. Però per fare breve questo breve discorso, però ci aiuta ad arrivare al dato di oggi. Che cosa è accaduto? Che un po' a macchia di leopardo, prima in sordina, poi sempre meno, poi è arrivata la stagione dei grandi deficit sanitari e quelle dei piani di rientro che in qualche modo costringono le regioni con i bilanci sanitari rosso a fare i conti con se stesse in maniera brutale spesso, e quindi quello che prima era quasi un'eccezione, ritorno al ticket farmaceutico in sordina, di fatto ormai è diventato di nuovo una realtà quasi le regioni si sono affezionate alla compartecipazione e non intendono più naturalmente lasciarla e non possono peraltro più farla per tante ragioni. Mi spiega come siamo arrivati ai 140 euro, direttore? Esatto, 12 anni circa di distanza dalla cancellazione dei ticket di Veronesi, oggi di fatto in Italia c'è di nuovo il ticket. E la cosa buffa però è che dati ufficiali, tranne quelli sui farmaci che sono rendicontati mensilmente, che l'ultimo report sul quale ci siamo basati noi è quello della Genas dei primi 9 mesi dell'anno, dal quale si deducono quegli aumenti incredibili di ticket che citava prima Roberto nell'anno 2011, tranne questa voce, gli altri ticket sono un po' nascosti tra le pieghe dei bilanci, c'è qualcosa in quello che si chiama entrate proprie delle ASL, che sono appunto i ricavi che direttamente le ASL ricevono dei ticket che la gente paga quando va a fare una prestazione specialistica o una visita ambulatoriale dentro un'ASL, ma ad esempio non sono rendicontati quelli che il cittadino paga quando paga il ticket comunque in una struttura convenzionata, dove in regime di convenzionamento il ticket è comunque pagato. Le ASL ad esempio non rendicontano quella cifra perché risultano meno le spese. Però mi scusi, Fasteri, poi la faccio completare il discorso. Comunque, arrivando a 140 euro, che è una cifra evidentemente media, avete calcolato che non lo so, il cittadino italiano esegue e faccia le stesse prestazioni, abbia bisogno delle stesse prestazioni di cui in media ha avuto bisogno nel passato? Qui viene una brutta sorpresa che non è presente in questo dossier, ma che forse può essere utile per citare e far capire poi praticamente cosa cambia. In questo studio noi abbiamo fatto un calcolo generale, quindi abbiamo diviso il pro capite e vedere che cosa accade rispetto al 2011. L'incremento è relativo, stiamo parlando di 15 euro in più tra analisi e farmaci. In realtà però noi abbiamo fatto un'altra simulazione consultandoci ovviamente la nostra equip medica per fare degli esempi concreti. Allora, ad esempio, questi 10 euro che di per sé non sembrano, anche se sono comunque 10 euro una cifra incredibile, possono avere un effetto perverso di moltiplicazione del costo. E allora, se io fino a prima dell'entrata in vigore del super ticket di 10 euro, per fare ad esempio un check-up cardiovascolare basic, che comprendono elettrocardiogramma, una visita cardiologica, una radiografia, certo, sono 10 più 10 più 10 per ogni esame. Prima di ticket io pagavo 158 euro. Calcolando la franchigia di 36 euro. Le chiedo un po' di sintesi, basta. Fasteri, per tanti ascoltatori, sì. Quindi? Oggi io arrivo a pagare minimo 208 euro. Per fare una stessa cosa gastrointestinale, fino a ieri pagavo 102 euro, oggi l'incremento è addirittura superiore, arriva a 152 euro. Benissimo, per modo di dire. Fasteri, grazie. Adesso vorrei sentire anche gli altri ascoltatori che tipo di esperienza hanno registrato e poi saluto anche, perché l'abbiamo raggiunta, Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato. Buongiorno anche a lei, grazie. Buongiorno a voi e grazie. Che sono riuscita a rivedere nonostante una mattinata un po' complicata. Allora, vorrei sentire anche, perché anche il tema che abbiamo sollevato con l'ascoltatrice precedente ci preme molto, visto che stiamo dando la caccia a tutti gli evasori in una maniera ormai ossessionante per tutti, da Cortina partendo appunto dalle abitudini di vacanza anche alla sanità adesso, quindi vediamo un po' se c'era, perché mi interessava appunto questo aspetto. C'è Rossana da Firenze che vorrei sentire. Rossana, buongiorno, perché buongiorno, in qualche maniera contestava quello che diceva Lida da Brescia. Anzitutto la saluto, è molto gentile. Ha una voce pacata, mette diciamo a nostro agio i cittadini. Grazie. Educazione e rispetto. Grazie Rossana. Allora, volevo dire anzitutto smentire quello che ha detto la signora, perché noi a Firenze, se facciamo un'autocertificazione di esenzione, dobbiamo riempire dei moduli, per cui questa ma questo proprio... Rossana ad ogni esame, ogni volta che va a fare a chiedere una prestazione, certo, ecco, quindi capire certo. Come funziona la sì, Brescia funziona certo. Così poi volevo dire allora, già aveva detto il suo interlocutore di prima che appunto a monte già paghiamo noi una certa cifra. Io sono una pensionata di 475 euro, cioè praticamente la minima. E da quando mi hanno mandato anche un conto da pagare del 2010, io mi sono rifiutata, anche perché se io pago il conto che mi hanno mandato di extra, diciamo, di soldi da pagare alla sanità, io non mangio. Allora, ma come le hanno chiesto questo aumento, mi scusi, questo no, extra? No, l'aumento. E secondo loro gli risultano degli analisi non retribuiti, ovviamente pagati da me, e praticamente mi hanno mandato da pagare un bollettino io sono andata di persona. Sì, certo, perché il pensionato che percepisce 475 euro lo recuperano subito. E mi sono rifiutata, non pago, lascerò lì a monte. Poi c'è da dire questo, io tutti gli anni facevo una visita ginecologica gratuita nel mio centro, ecco appunto dell'ASL, e praticamente tenevo sotto controllo il mio stato. Sì, certo. Ecco, Da quando è venuto fuori ora questa situazione, questo ticket da pagare, io non ci vado più, ma come me tanta gente, per cui il governo Monti a questo punto non solo si porterà sulla coscienza i suicidi che stanno seguendo a ruota, ma si porterà anche sulla coscienza delle persone che si ammaleranno perché non hanno perché non fanno pagare. Più possibilità di fare la prevenzione come la faceva lei con questo brava. Controllo, Rossana. Brava, e poi volevo dire un'altra cosa. Visto che continuamente precisate tutti quanti, gli italiani devono pagare, gli italiani. Io vorrei sapere, allora a questo punto, se tutti quelli, ora non mi fraintendete, non sono razzista, però è giusto che venga chiarita questa situazione. Diciamo già che è in passato, ora faccio un passettino indietro, diciamo già che è in passato, diciamo che i cittadini se ne sono approfittati di tutte le medicine che avevano gratuitamente e quant'altro, che se avessero fatto come facevo io, portavo il cestino con tutte le medicine e chiedevo al medico se era possibile usufruirne qualcuno di quelli che avevo in casa, se no li prescriveva. E diciamo che molti cittadini questo sistema non l'hanno, diciamo, adottato educatamente e quindi abbiamo pagato poi tutti quanti le conseguenze, che poi si è visto quello che si è. Rossana, l'abbraccio, la ringrazio, se può continui a fare prevenzione in modo tale che possa essere sempre così anche lucida nel raccontare le cose. Non so se sentirmi più scandalizzata per gli aumenti a pioggia che ci arriveranno e che sono arrivati negli ultimi mesi sul fronte sanitario, piuttosto che per il fatto che a questa ascoltatrice di Firenze, con questa persona che percepisce appunto per, adesso non ho capito bene, magari bisognerebbe ricostruire anche con dettagli il caso, per un pagamento di analisi o non effettuato o effettuato appunto in maniera diversa rispetto a quello che sarebbe stato necessario, immediatamente gli è stato rivendicato questo arretrato. Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, avete peraltro un servizio che si chiama SOS Ticket, al quale vi arrivano tante segnalazioni, forse anche simili a quelle che abbiamo sentito. Ma intanto, per esempio, è così facile autocertificare l'esenzione come è accaduto all'ascoltatrice di Brescia che ci ha chiamato all'inizio? Da quello che le risulta? E altre persone si sono lamentate con noi su questa questione dell'introduzione dei super ticket e anche di tutta la burocrazia che ne è derivata, no? Per cui molti altri ci hanno denunciato questi problemi. Poi, come vedete, cambiano da regione a regione le situazioni, perché anche se sulle esenzioni c'è per esempio una normativa nazionale, però poi ogni regione ha allargato di più o di meno la possibilità per i cittadini di avere il diritto delle esenzioni. E c'è stata quindi anche tanta confusione all'inizio, sia per l'introduzione dei ticket, e molti ci hanno chiesto qual era la normativa applicata nella propria regione, ad esempio, così come ci hanno fatto molte richieste anche per capire perché dovevano pagare di più, molti indignati ovviamente per questo, e tanti altri ci segnalavano che il privato conveniva di più. E quello che diceva la signora della Toscana è molto preoccupante ed è, appunto, ci deve allarmare, perché se le conseguenze di tutto questo saranno il non curarsi o non, soprattutto non fare prevenzione, e già se ne fa poca in Italia, diciamo la verità, il futuro non è roseo, perché sappiamo che se non investiamo in prevenzione poi il tutto costerà molto di più, non solo in termini di salute ma anche in termini economici al nostro Stato. Certo, no, le chiedevo appunto magari una delucidazione in merito, se lei conosce come si fa, se per esempio appunto la questione dell'esenzione è così facile da dimostrare a uno sportello presso il quale si chiede una prestazione sanitaria, perché per Rossana ci diceva io devo compilare 2000 moduli, Lida dice io vado, non mi chiedono niente, basta che possa dire a voce sono esente, punto. Le risulta, Sì, mi risulta che ci siano queste difficoltà e il nostro servizio è appunto a disposizione, nel caso possono contattare il nostro servizio di informazione e consulenza, che approfondirà bene il loro caso e gli darà bene attraverso appunto PIT Salute, @cittadinanzaattiva.it o anche il nostro numero di telefono per capire se funziona così, insomma, male. Esatto. Asla. No, Roberto Turno, volevo sentire te su questo caso, tra l'altro era anche stato molto pittoresco, un caso estremo che si è verificato nei nei giorni scorsi e che abbiamo commentato a Focus Economia nella scorsa settimana. Mi sembra che il direttore della ASL di Asolo abbia addirittura invece attivato un'iniziativa per cui se, dopo aver prenotato una visita specialistica, il cittadino non si presenta, addirittura lui prende, li segnala ad Equitalia. Questo mi pare un'altra deriva ancora assolutamente folcloristica e curiosa, non ho ben capito che tipo di finalità abbia. Sicuramente lui vuole mantenere molto elevato il tasso di assistenza che si riesce a garantire agli sportelli appunto di quella ASL, però insomma qua forse ancora una volta dimostriamo il quadro tanto eterogeneo che c'è in Italia anche in questo settore, soprattutto certo, in questo settore. Spesso che capitano degli eccessi che insomma del medio vitale, cioè c'è una norma per cui chi non ritira le analisi, chi non ottempera una visita e tutto quanto, poi ci sono casi che casi, ovvio. Io credo di una cosa, lo sciopero del balzello della signora Rossana mi ha molto colpito e che, come dire, sono solidale. Così come collegherei questo aspetto con quanto ha detto la signora Lida, vero, che le donne sono le più sensibili sempre su questi aspetti. Ma perché gli uomini sono più ipocondriaci, Roberto, quindi hanno sempre un po' paura della malattia, ma questo è un altro discorso. Sì. No, perché questo discorso delle esenzioni e quindi dell'evasione, questo è un capitolo che è enorme, che è importantissimo. Io dico, non per arrivare agli eccessi di cui hai detto dell'ASL, di Treviso, di dove non lo so. Sì, ASL. Ma forse, come dire, una qualche forma di modello cortina per la sanità, per gli evasori fiscali, non ci sarebbe male, perché chi evade il ticket, chi evade i contributi dei sanitari, ci ruba salute, questo è il punto. E poi la signora Rossana con una pensione, mi perdoni, ma al limite della sopravvivenza, a quantomeno non deve aprire il conto corrente. Ecco, io penso che questo sia il vero aspetto su cui confrontarci ora, e spero che col patto, se mai basterà, con la proposta di Balduzzi che in campo come si articolerà, a parte che ci faranno pagare di più, si arrivi finalmente a quel mitico incrocio dei dati che le finanze hanno, che sanno tutto, per cui tutti paghino tasse ma anche la salute. E infatti è che a questo diritto accedano tutti indistintamente. Allora ci sono tanti ascoltatori in attesa, vi leggo un messaggio di Elisabetta che ci scrive al nostro indirizzo di posta elettronica: ho avuto esperienza all'estero, non riesco a capire come mai i costi qui in Italia siano così alti. Ho fatto privatamente a pagamento una serie di esami e visite in un ospedale di Germania, visita medica, due ecografie, una trentina di esami del sangue, mi sono costati tutti complessivamente 208 euro. Ho la fattura con l'indicazione di quanto ho speso per ogni singola voce, facendo un calcolo, i costi delle singole prestazioni in Italia sarebbero costati molti di più. Elisabetta, grazie anche a lei per la sua testimonianza. Volevo sentire, non riesco a sentire probabilmente Antonio da Roma, che è un medico che ci vorrebbe chiaramente esprimere la sua testimonianza dicendo che è fondamentale poter garantire a tutti gli screening per patologie importanti. Antonio, oggi parliamo di costi e raccolgo così la sua testimonianza. Volevo però sentire Maria Grazia dalla provincia di Bergamo, perché lo stesso ci solleva un'altra questione che avevo trovato anch'io sui giornali e che mi aveva incuriosito un po'. Maria Grazia, non capisco il senso del suo disappunto su questa novità che arriva in Lombardia a partire da marzo. Buongiorno intanto, sì, se buongiorno, ce la buongiorno, racconta buongiorno molto rapidamente perché stiamo chiudendo. Certo, grazie. Esattamente. Sì, volevo solo dire questo, io lavoro in ospedale, questo gli ospedali riuniti della mia città da più di 20 anni. Il mio disappunto è in questo senso, Deborah. Un paziente oncologico di 40 anni, come noi ne vediamo tantissimi, padre, madre di famiglia, questo, a cui debba essere comunicato necessariamente il costo dell'intervento a cui lui non può rinunciare, perché se rinuncia, rinuncia di fatto verosimilmente a rimanere in vita più a lungo. Io credo sia veramente Perché la novità è, la spiego io, Maria Grazia, che dal 1 marzo i cittadini della Lombardia conosceranno per ogni esame, visita medica, ricovero, quanto il Servizio Sanitario Nazionale spende per curarli. Quindi lei mi dice, lo conoscerà in via preventiva questo costo? No, da quello che io ho capito, il medico a cui facciamo assolutamente affidamento in questo senso per la loro eticità, alla lettera di dimissione, ad esempio un paziente ospedalizzato, consegnerà anche il costo del ricovero di questo malato. Come si può dire a un malato giovane, anche a un malato anziano, che ha dovuto ricoverarsi per forza, perché non è un intervento di chirurgia estetica, certo, non è una cosa a cui si può soprassedere. Ma anche fosse una banale appendicite, Maria Grazia, non è che decidiamo di farcela perché siamo più belli, quella va fatta e costa molto meno. In verità, rispetto a questa cosa, poi confrontandomi con altre persone, è vero, spero che il paziente poi dica va bene, so che sono costato in questo modo, ho già dato perché ho già pagato, si diceva prima, certo, chi paga, chi non paga. Io credo sia una cosa però fondamentalmente ingiusta quando grazie. Deve ricorrere. Grazie, grazie Maria, grazie molte. Io non ho tempo di far intervenire di nuovo i miei interlocutori questa mattina, la puntata è volata, però abbiamo sentito anche delle testimonianze molto interessanti. Il tema è che anche quest'anno dovremo monitorare molto attentamente anche questa voce di spesa. Speriamo di non doverla prendere in considerazione perché non ci sarà bisogno di alcun tipo di prestazione sanitaria, ma è molto difficile che nelle case abiti, perché dice, come diceva Maria Grazia, anche una banale appendicite è invece molto frequente che succeda di doverla fare. Io ringrazio Roberto Turno, Francesca Mocce e Cesare Fassari per essere stati con noi, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione. Noi ritorniamo come sempre domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.